2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci pronti per una nuova puntata di 2024. In questa puntata parleremo del futuro della TV, parleremo anche di spazio tra poco con due nostri ospiti per parlare della missione Rosetta, di cui si è parlato molto in questi ultimi giorni. Faremo un approfondimento per capirne di più. Il settore spaziale è estremamente importante per tutto quello che facciamo ogni giorno. Pensate, a proposito di TV, se non ci fosse stata la ricerca spaziale, oggi non avremmo ad esempio i satelliti, e parleremo anche di questo in questa puntata di 2024. Iniziamo parlando dei Google Glass, perché da tempo si attende un arrivo sul mercato di questo prodotto. Beh, molto probabilmente non arriveranno mai sul mercato consumer. Parlando con un giornalista ad un evento in Silicon Valley, uno dei fondatori di Google, uno dei due fondatori, Sergey Brin, che si occupa della ricerca all'interno del gruppo, ha detto che aveva lasciato i suoi glass in automobile, mentre in altre occasioni li aveva spesso sfoggiati. Allora, se ne è parlato in Silicon Valley. Da tempo alcuni in Silicon Valley dicono che chi utilizza i Google Glass viene un po' definito una sorta di sfigato, troppo nerd. La Reuters ha scritto un lungo pezzo, molto approfondito, ma estremamente negativo sul futuro dei glass, spiegando che 9 su 16 sviluppatori di app per gli occhiali di Google hanno abbandonato negli ultimi mesi lo sviluppo di software, e in molti si stanno concentrando solo su applicazioni business e non consumer. Oggi ci sono in giro prodotti a $1,500, ma si tratta di un test, una sorta di prima release di questo prodotto. Però molte persone del team di sviluppo se ne sono andate negli ultimi mesi, anche se Google ufficialmente continua ad investire sulla tecnologia, dicendo di volerla lanciare solo quando sarà perfettamente funzionante. Ma sono 2 anni che si sta cercando di farli funzionare al meglio. Allora, questo naturalmente non significa che non ci sia spazio per un prodotto di questo genere. Forse però bisognerà aspettare di vedere qualche cosa di più indossabile, meno ingombrante. Anche questo è un argomento interessante di cui parleremo. Saluto Luigi Bignami, giornalista esperto di spazio. Luigi, benvenuto 2024. Grazie, buonasera a tutti. Allora, ABC della missione Rosetta, che cos'è, perché abbiamo atteso 10 anni e perché tanti anni fa si è deciso, noi europei abbiamo deciso di andare su una cometa molto distante, 500 milioni di chilometri, con un viaggio di 10 anni, per fare che cosa? Per poter studiare la sua superficie e soprattutto per verificare se al suo interno ci sono quelle molecole che davvero si sostiene che possano aver portato la vita sulla Terra. Quella che è l'idea delle comete sta cambiando anno dopo anno, non sono più quelle palle di neve sporca come si diceva un tempo, ma sono qualcosa di molto, ma molto più complesso, che davvero meritano l'attenzione. Ed è per questo che nel 2004 è partita questa missione molto molto complessa, che ha impiegato 10 anni, non tanto per la distanza in sé, ma perché si è preferito utilizzare la Terra come sistema per lanciare questa sonda verso la cometa. Quindi è stata fatta passare più volte vicino alla Terra e poi vicino a Marte per ricevere quella che si chiama una spinta gravitazionale. In questo modo si è potuto arricchire la sonda di apparecchiature e anche di quel famoso file che è la sonda figlia che è rimasta aggrappata a Rosetta per tutto questo tempo, e poi finalmente ecco che il 12 novembre alle 9:30 si è staccata e lentamente per 7 ore, lasciandosi proprio cadere, facendosi attirare dalla debolissima gravità della cometa, ha raggiunto la superficie. Qui ha rimbalzato per 3 volte, una prima volta addirittura è ritornata nello spazio, spostandosi di 1 chilometro dal punto precisissimo dove la sonda era scesa, e poi, ahimè, è finita in una specie di piccolo crepaccio ed ora non è in una posizione eccelsa per gli esperimenti che avrebbe dovuto realizzare. Comunque la missione ha ottenuto il pieno successo di riuscire ad arrivare, e in queste ore ha da poco trapanato la superficie della cometa. Rosetta, la sonda madre, è rimasta attorno alla cometa che si chiama, ricordiamolo, Churyumov-Gerasimenko dal nome dei due scopritori e sta ottenendo un insieme di dati davvero straordinario, non solo per le immagini con i particolari che arrivano ai 50 centimetri, ma anche perché sta realizzando quella che è proprio la mappatura dei gas che fuoriescono dalla cometa e l'accompagnerà da qui al 2005 vicino al Sole, quindi potrà ovviamente analizzare via via con sempre maggiore precisione quello che uscirà dal nucleo della cometa. Luigi, in un minuto diciamo che la missione ha avuto successo perché è atterrata perfettamente nel luogo dove avrebbe dovuto atterrare, ma c'è stato l'unico problema che c'è stato è che il sistema di aggancio alla superficie dove sostanzialmente non c'è gravità non ha funzionato, quello è stato l'unico problema. Poi sentiremo anche le ultime notizie. Sì, è proprio così. Ci sono stati due problemi contemporaneamente. Il primo è il fatto che un piccolo motore che era stato posto nella parte superiore di questa sonda che doveva atterrare non ha funzionato. Questo motore serviva per tenere la sonda schiacciata sulla superficie della cometa. La cometa ha una gravità bassissima, per dire la file, questa sonda che è scesa, pesa 100 kg sulla superficie della Terra, sulla cometa un solo grammo, per far capire come piccola la forza di gravità. Per cui anche arrivando ad una velocità bassissima, che era di 3 km al secondo, 3,5 km al secondo, quindi la velocità di una persona che cammina, se non ci fosse stata questa spinta, la sonda avrebbe avuto la possibilità di rimbalzare, a meno che gli arpioni non fossero riusciti a trattenerla, ma ahimè questi arpioni non hanno funzionato come avrebbero dovuto e quindi ecco che la sonda è rimbalzata indietro, non ha raggiunto quella velocità da dover lasciare la sonda, dover lasciare la cometa, sì, sì, sì. Ma è ricaduta poco più in là. Allora, 3,5 km all'ora. No, sì, secondo, ho detto al secondo, sì, forse, sì, sì. Chiedo scusa, no, ho certo, sbagliato. No. Allora, Paolo Ferri è responsabile delle operazioni spaziali per l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA. Buonasera Ferri. Buonasera. Ci dà le ultime notizie perché sta succedendo qualche cosa, voi dovreste sapere quello che è successo nelle ultime ore. Beh, assolutamente, siamo dal centro di controllo di Darmstadt, siamo appunto, noi controlliamo la sonda Rosetta e abbiamo gestito questo atterraggio. E quindi abbiamo seguito fino a questo momento la vita di file sulla cometa. Allora, prima di tutto mi complimento con le spiegazioni del signor Bignami, mi è sembrato molto, molto accurato, però vorrei dire una cosa, alla fin fine è vero, non hanno funzionato questi sistemi di ancoraggio e il file però ha avuto una grande fortuna, il cadere vicino a questa roccia praticamente lo ha fermato e lo ha fermato in una posizione in cui alla fine siamo riusciti a fare praticamente tutto quello che voleva fare. Diciamo, si è andati molto cauti perché non essendo ancorato, ogni movimento meccanico che gli strumenti dovevano fare avrebbe potuto, non so, ribaltarlo, eventualmente destabilizzarlo. Quindi per le prime 48 ore si sono fatti solo esperimenti che non muovevano niente. Quindi misure di spettri della sostanza, del gas che c'è nei dintorni, si è fatta una tomografia del nucleo, quindi mandando onde radio da file verso Rosetta attraverso il nucleo della cometa per vederne la struttura interna, quindi esperimenti di quel genere. Solo ieri notte ci siamo azzardati a muovere i primi due di tre esperimenti che dovevano avere bisogno di movimenti. Uno misurava la temperatura alla superficie, quindi doveva piazzare una sonda, martellare una sonda nella superficie, e un altro invece doveva misurare anche diciamo sempre la composizione della superficie abbassandosi sulla superficie. Questo è stato fatto ieri, il lander ha reagito bene, nel senso che abbiamo avuto ancora il contatto radio, che per noi è vitale, il contatto radio tra Rosetta e il lander, abbiamo circa 3 ore di contatto ogni 12 ore. Ci mette mezz'ora, vero, il segnale arrivare sulla Terra? Il segnale ci mette mezz'ora, però non è un segnale continuo perché il segnale ha bisogno di Rosetta che faccia da ponte, se vogliamo, e quindi la cometa ruota su se stessa in 12 ore, Rosetta va molto piano intorno alla cometa, quindi alla fine abbiamo una visibilità di 3 ore ogni 12 ore. E abbiamo avuto 4 passaggi fino ad ora e il prossimo inizia stasera alle 11:30 e pensiamo sia l'ultimo perché le batterie di file stanno giungendo alla termine della loro energia e speriamo che se abbiamo questo ultimo passaggio, nel frattempo nel penultimo di stamattina abbiamo anche provato a usare il famoso trapano che doveva raccogliere campioni sotto la superficie. Lo abbiamo visto iniziare le operazioni, ma non abbiamo visto poi come è continuato. I dati sono stati registrati a bordo, speriamo stasera di avere l'ultimo passaggio, di mandare giù questi dati e che sia stato, che abbia avuto successo anche questo esperimento. Ferri, io la ringrazio per essere stato con noi anche per questa spiegazione accurata. Magari ci risentiremo nella giornata di domani, magari ci scriviamo se è disponibile per poi inserire anche nella versione podcast di 2024 tutti gli aggiornamenti, perché diciamo che con questa notte finisce la vita di questa sonda, di questo lander, perché non è stato possibile, visti i problemi che ci sono stati, aprire i pannelli solari, giusto? No, non era una questione di apertura. Prima di tutto va precisato, il lander, siccome non si sapeva cosa si trovava sulla superficie, il lander è stato progettato per funzionare con le batterie. La sua sequenza di attività minime era stata pensata da funzionare con le batterie, quindi questo non aveva bisogno dei pannelli solari. I pannelli solari in realtà non esistono, ci sono delle celle che sono state attaccate su tutta la scatola esterna del lander, sperando di raccogliere energia solare, appunto, se fosse atterrato in una situazione ideale, ma non si sapeva se ci sarebbe stata polvere che si incollava sopra, non si sapeva le condizioni di illuminazione, quindi in ogni caso non ci si faceva conto su questa energia. Certo ci si sperava tanto. Per ricaricare le batterie. Esatto, quindi la missione è stata progettata per scaricare le batterie facendo tutti gli esperimenti, però poi si sperava in condizioni ideali di illuminazione di prolungare comunque, la vita. Esatto, comunque questa energia avremmo dovuto passare un paio di settimane a ricaricare, poi fare un piccolo esperimento, poi un altro paio di settimane, quindi non è che si aggiungeva tanto, ci speravamo, purtroppo siamo dietro a una roccia, quindi sì, l'illuminazione è molto piccola. Stasera proviamo a girare il corpo del lander, facciamo un tentativo se vogliamo estremo, con l'ultima energia rimasta, lo giriamo in modo da esporre un pannello un po' più grosso. Non sappiamo di quanto migliorerà la situazione, però diciamo è molto probabile che la vita del lander finisca stasera. Bene, grazie a Paolo Ferri per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie. Questo è quello che ci ha detto appunto Paolo Ferri nella serata di venerdì. Noi sabato mattina, e questa è una registrazione che vi proponiamo solo nella nostra versione podcast, abbiamo fatto un'altra chiacchierata con Paolo Ferri per farci raccontare che cosa è successo nelle ore successive all'intervista che avete appena ascoltato e di fatto per fare il punto finale della situazione, perché la sonda ha terminato la propria energia e potremmo dire ha terminato la propria vita. Sentite che cosa ci ha raccontato e ci ha spiegato. Esattamente, il lavoro si è concluso stamattina presto, tra l'una e le due. Abbiamo, durante l'ultimo contatto, il quinto contatto, abbiamo avuto la fortuna di vedere il momento in cui le batterie hanno finito la loro energia, quindi sono andate sotto un certo livello di corrente, per cui il lander si è spento da solo, mantenendo il contatto fino all'ultimo minuto. Quindi le operazioni sono state completate. Nell'ultimo contatto abbiamo verificato che anche le ultime operazioni che erano state fatte nelle ore precedenti erano state eseguite bene. Abbiamo scaricato tutti i dati che aveva raccolto. Quindi da un punto di vista del lavoro file, ha completato il lavoro e ha fatto tutto quello che era stato previsto. Quindi questo è, dal suo punto di vista, un successo estremo. Quindi il trapano ha funzionato, ha fatto, insomma, l'obiettivo è stato raggiunto. Allora, il trapano in questo momento possiamo dire senz'altro che ha funzionato, ha eseguito tutti i movimenti che sono stati comandati, o perlomeno non ci ha mandato nessun segnale negativo da quel punto di vista. I dati relativi all'analisi dei campioni che voleva raccogliere sono stati mandati. Quello che non possiamo dire, perché verrà solo verificato dall'analisi dei dati che gli scienziati stanno facendo in questo momento, è se effettivamente abbia bucato il terreno, raccolto un campione. Questa è una cosa che dalla nostra telemetria ingegneristica non possiamo giudicare, quindi lo sapremo solo quando gli scienziati vedono cosa ha misurato. E questi dati quando saranno disponibili? Allora, io so che in questo momento c'è un meeting di tutti gli scienziati dell'ENDER mentre stiamo parlando, quindi è un meeting che durerà parecchie ore. Io mi immagino, visto, conoscendo i nostri scienziati, che se ci sono misure di qualcosa, non ci diranno che cosa hanno misurato, perché prima vogliono verificare, vogliono elaborare, vogliono pubblicare in modo formale e scientifico, però ci diranno almeno, spero entro la giornata, io spero entro le prossime ore, ci diranno se hanno misurato qualcosa o no. Bene, quindi questa sicuramente è una notizia interessante, poi seguiremo attraverso i canali dell'ESA le informazioni. Senta, la sonda Rosetta continua il suo, perché lo strumento File che è stato posizionato sulla cometa è definitivamente spento, quindi potremmo dire è non funziona più. La sonda invece continuerà a funzionare oppure missione terminata anche per lei? No, assolutamente no. Allora, prima di tutto su File, le ha detto correttamente, la missione è terminata per noi, però c'è ancora una speranza, direi abbastanza tenue, però una speranza che con la poca radiazione solare che sta ricevendo, lentamente ricarichi le batterie e nelle prossimi giorni o settimane possa ancora comunicare. Questo era stato previsto mettendogli dei pannelli solari alla fine della missione. Quelli che hanno progettato il lander speravano di avere questo tipo di attività, quindi di accumulare le batterie, questi pannelli, anche in condizioni ideali di illuminazione, possono dare giusto veramente 4-5 watt di potenza, quindi intendevano accumulare energia nelle batterie per non so una settimana e poi operare per un giorno. Questo andare avanti qualche settimana finché il lander moriva comunque per questioni termiche. Purtroppo siamo finiti all'ombra di una roccia o di una parete rocciosa, quindi le condizioni di luce sono sicuramente non ottimali. Ieri nell'ultimo passaggio abbiamo girato il corpo del lander per cercare di orientare il pannello solare più grande che ha verso il sole, verso la direzione da cui viene il sole. Quindi c'è ancora una vaga speranza. Cosa fa Rosetta? Rosetta continua la sua missione, questa era la sua domanda, continua ad osservare la cometa. Nelle prossime settimane voleremo a distanza, in un'orbita a 20 km di distanza. La missione continua perché la cometa continuerà ad evolversi, a crescere con l'attività. La accompagniamo per molti mesi verso il Sole. Per ora la fine della missione è prevista alla fine dell'anno prossimo, andremo avanti probabilmente ancora oltre. Nel frattempo Rosetta ogni tanto punta la zona del lander e ascolta. Lo abbiamo fatto questa mattina, lo continueremo a fare nei prossimi giorni, e nel caso il lander accumulasse abbastanza energia sentiremo ancora parlare di lui, anche se ripeto è un'eventualità che ritengo abbastanza improbabile. E questa è la testimonianza di Paolo Ferri, che abbiamo raccolto nella mattinata di sabato, una intervista che offriamo solo ai nostri utenti podcast, quindi solo nella nostra versione podcast. Ringraziamo naturalmente Paolo Ferri dell'Agenzia Spaziale Europea per la disponibilità per questi aggiornamenti. Tutti gli altri aggiornamenti nelle prossime ore, nei prossimi giorni, vi consigliamo di raccoglierli attraverso i canali ufficiali dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che ha anche una versione del sito in italiano, e anche su Twitter è molto attiva anche in lingua italiana, quindi sicuramente un buon canale, oppure seguitemi su Twitter, vi darò, ritwitterò gli aggiornamenti dell'Agenzia Spaziale Europea. Sempre e solo per la versione podcast, questa settimana una puntata un po' diversa, visto che quella del venerdì è stata una puntata in diretta, normalmente siamo registrati nelle nostre varie versioni, solo per questa settimana le nostre digital news sono offerte solo ai nostri ascoltatori più fedeli in podcast. Digital news. Si è svolta a San Francisco la Samsung Developer Conference, cioè la conferenza, l'appuntamento annuale per gli sviluppatori sull'ecosistema Samsung, conferenza alla quale sono stati presentati i servizi che l'azienda coreana porterà sul mercato nei prossimi mesi e anche nei prossimi anni, alcuni trend, alcune idee. Tutto ciò naturalmente nel tentativo di competere sia con Apple che con Google sul medio-lungo periodo. Allora, ricordiamo che nonostante i prodotti Samsung utilizzino Android, quindi con tutti i servizi tipici di Android, esiste uno strato software di servizi esclusivi Samsung, quindi progettati, ideati e offerti solo sui terminali Samsung, che in alcuni casi sono simili a quelli disponibili su iOS o Android, in altri casi sono proprio un'esclusiva, un'idea originale di Samsung. Questo è sicuramente un terreno interessante, perché c'è chi spesso dice che i produttori che utilizzano Android di fatto sono legati nel bene e nel male ad Android, quindi allo sviluppo software di Android e di Google, e anche naturalmente dei servizi di Google, perché offrendo Android offrono anche l'accesso ai servizi di Google, e per distinguersi devono, e tutti un po' lo stanno facendo, almeno i più grandi, Samsung, LG, Sony, Motorola, insomma un po' tutti stanno cercando di distinguersi, ma questo è un esercizio piuttosto difficile. Digital News. È stato lanciato anche in Italia, o meglio verrà lanciato dalla prossima settimana, YouTube Music Key, il nuovo servizio in abbonamento col quale vedere video musicali senza pubblicità anche offline. Dovrebbe costare, come gli altri servizi simili, quindi circa 10 euro al mese, c'è una promozione, ci sarà una promozione che costerà un po' meno. In questo modo però si avrà un accesso automatico anche al catalogo musicale del Google Play Music, catalogo di musica illimitato, e vale anche viceversa, cioè chi è abbonato a questo servizio, al Google Play Music, avrà accesso da subito a Music Key. Al momento l'accesso a YouTube Music Key è solo su invito, potete iscrivervi online. Digital News. Microsoft ha presentato questa settimana il primo telefono senza marchio Nokia, quindi è un passaggio storico, si chiama semplicemente Lumia 535, sarà disponibile in Italia entro le prossime settimane. A proposito di Microsoft, vi annuncio, vi ricordo che la prossima settimana avremo ospite l'amministratore delegato italiano di Microsoft, naturalmente Microsoft Italia. Digital News. Con la versione 33.1 aggiornata questa settimana, la Mozilla Foundation festeggia i 10 anni di Firefox, il più bel programma di navigazione internet. Noi siamo dei grandi sostenitori di Firefox. La novità è il tasto Dimentica, molto semplice, che permette di cancellare velocemente gli ultimi dati di navigazione. È una novità presentata, ma la Mozilla Foundation punta sempre e molto sul rispetto della privacy, e sicuramente questo è uno dei plus di Firefox che vi consigliamo di scaricare e di utilizzare. Digital News. Grazie ad un accordo con Poste Italiane, i clienti di Amazon potranno fare recapitare la merce acquistata e ritirarla in 10.000 uffici postali italiani. Sono sempre di più i servizi di pick-up alternativi alla consegna a casa, perché magari uno dice: non so quando arriva il corriere, non so se sono a casa. Il mercato sta presentando varie opzioni, molto interessanti i locker, cioè gli armadietti automatici dove uno va con un codice 24 ore su 24 e ritira il pacco acquistato. Oppure ci sono anche i pick up point presidiati da personale, così come questi 10.000 uffici postali, che hanno però naturalmente delle limitazioni orarie. Gli uffici postali, l'orario delle poste. Probabilmente l'idea più intelligente, più utile ai consumatori è quella di In the Box, che si appoggia su centinaia di bar in tutta Italia, che ovviamente hanno orari più estesi rispetto a quelli di un ufficio postale o di un altro pick up point. E quindi uno quando compra la merce su determinati siti che hanno aderito al network di In the Box sceglie di farlo consegnare nel tal bar che magari è vicino a casa sua, va e ritira anche alla sera o alla mattina presto. Digital News. Un'ultima notizia riguarda la neutralità della rete. Questo è un argomento estremamente importante, estremamente interessante, anche se capisco che può essere anche un po' noioso. Allora, c'è un acceso dibattito sulla neutralità della rete negli Stati Uniti, soprattutto per una decisione che potrebbe essere imminente della Federal Communication Commission, che è una sorta di AGCOM, un'autorità per le comunicazioni. Allora, ricordiamo che la neutralità della rete è uno dei grandi principi grazie al quale la rete internet è nata e si è sviluppata. Tutto passa senza discriminazione, un po' come quando uno va in autostrada, non è che lo guardano in faccia o guardano il colore dell'automobile. Uno paga il transito e il contenuto sulla rete internet può passare. Viceversa per il consumatore, io posso andare tranquillamente in tutti i siti internet e sostanzialmente non sono discriminato, non c'è discriminazione. Poi la materia è piuttosto complessa, io lo sto facendo molto semplice, ci sono dei problemi e delle motivazioni di carattere tecnico e anche di carattere giuridico, quindi la materia è estremamente complicata e le due parti hanno alcune ragioni a sostegno delle proprie tesi. Quelli che combattono contro per mantenere internet libero e senza alcuna restrizione, e soprattutto le grandi aziende di telecomunicazioni che invece vorrebbero imporre qualche cambiamento. Allora, soprattutto con la crescita dei servizi video, i grandi operatori vorrebbero privilegiare questi servizi per garantire una maggiore qualità del servizio, una maggiore qualità video. Ma questo potrebbe, dicono in molti, andare contro il principio di neutralità, perché giustamente un operatore dice: se io fornisco al consumatore un servizio video, questo deve essere fluido senza alcuna interruzione, perché un conto è scaricare una pagina web che può arrivare anche a tratti in qualche secondo, un conto è un video. Ma se si sfonda il principio, chissà che cosa potrebbe succedere, dicono quelli che difendono la neutralità della rete. Questa settimana ha preso posizione anche Barack Obama. E quindi questo potrebbe fare slittare la decisione al 2015 e comunque aumentare e far accelerare anche questo dibattito, che soprattutto in paesi come l'Italia è piuttosto poco popolare. Se ne parla tra gli addetti ai lavori ma non tra il grande pubblico. Invece è un problema che riguarda tutti noi che navighiamo sulla rete internet ogni giorno. Sentiamo quello che ha detto Barack Obama, sostanzialmente, ripeto, prende le difese della neutralità della rete, dice: internet è nato e cresciuto libero, gratuito, senza vincoli e senza ostacoli, vogliamo che così continui ad essere. Ve lo offriamo senza traduzioni in questa versione solo podcast di 2024, ascoltiamolo insieme. Hi everybody. Ever since the internet was created, it's been organized around basic principles of openness, fairness, and freedom. There are no gatekeepers deciding which sites you get to access. There are no toll roads on the information superhighway. This set of principles, the idea of net neutrality, has unleashed the power of the internet and given innovators the chance to thrive. Abandoning these principles would threaten to end the internet as we know it. That's why I'm laying out a plan to keep the internet free and open. And that's why I'm urging the Federal Communications Commission to do everything they can to protect net neutrality for everyone. They should make it clear that whether you use a computer, phone, or tablet, internet providers have a legal obligation not to block or limit your access to a website. Cable companies can't decide which online stores you can shop at or which streaming services you can use. And they can't let any company pay for priority over its competitors. To put these protections in place, I'm asking the FCC to reclassify internet service under Title II of a law known as the Telecommunications Act. In plain English, I'm asking them to recognize that for most Americans, the internet has become an essential part of everyday communication and everyday life. The FCC is an independent agency, and ultimately this decision is theirs alone. But the public has already commented nearly 4 million times, asking the FCC to make sure that consumers, not the cable company, gets to decide which sites they use. Americans are making their voices heard and standing up for the principles that make the internet a powerful force for change. As long as I'm president, that's what I'll be fighting for too. E quindi vedremo, sentiremo, leggeremo quello che succederà negli Stati Uniti e come spesso succede, soprattutto per tutte le materie, tutti i temi legati alla rete internet, quello che succede negli Stati Uniti poi viene spesso preso ad esempio. E quindi questo è un tema molto interessante, molto importante, vedremo che cosa succederà e mi sembra una buona presa di posizione quella di Barack Obama che ha detto finché sarò presidente mi batterò per la neutralità della rete, per mantenere la rete internet così com'è. Naturalmente i grandi operatori di telecomunicazioni non sono stati proprio contenti, ma non gliel'ha ordinato il dottore di fare gli operatori di telecomunicazioni, quindi in questo caso mi sembra che la posizione da appoggiare sia quella del presidente degli Stati Uniti. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. Prima di presentarvi un ospite che abbiamo questa sera assieme a Gianfranco Giardina, parliamo di un nuovo servizio che è stato lanciato questa settimana da Poste Mobile per i clienti di Milano e Torino dei servizi di trasporto pubblico. Quindi se avete l'abbonamento al trasporto pubblico a Milano o Torino, con Poste Mobili potete virtualizzare il vostro abbonamento sullo smartphone. Ci ha spiegato come funziona il direttore commerciale di Poste Mobile, Maria Paola Masturzo. Oggi il cliente è abituato a usare la sua tessera di plastica avvicinandola al tornello che convalida la validità del titolo di viaggio e lo lascia entrare. Domani non dovrà più cercare la tessera nel portafoglio che magari ha smarrito o che in quel momento non trova, ma dovrà semplicemente avvicinare il telefono che grazie alla smaterializzazione del titolo di viaggio e alla possibilità di utilizzare la tecnologia NFC che è la stessa supportata dalla carta, NFC sta per Near Field Communication, cioè trasmissione dati di prossimità, consentirà al cliente di entrare nel tornello più semplicemente e più velocemente. Per adesso questo accordo è stato fatto a Milano e Torino, c'è già in programma qualche altra città? Sì, noi stiamo lavorando con praticamente tutti i player del trasporto pubblico in Italia, siamo per fortuna molto all'avanguardia sull'argomento, siamo partiti da Milano e Torino, continueremo nel resto d'Italia e siamo solamente all'inizio della smaterializzazione, vogliamo che gli italiani dimentichino a casa il portafoglio e portino con sé solamente lo smartphone. Nel caso specifico come pago? Allora, nel caso specifico paga proprio grazie all'integrazione con i mezzi di pagamento, quindi un cliente di Poste Mobile che abbia smaterializzato i mezzi di pagamento può pagare direttamente da smartphone nel mezzo pubblico. La bellezza è proprio questa, cioè a dire i passi logici sono due. Il titolo di viaggio, quindi l'abbonamento, viene smaterializzato e quindi compare nel telefono una tesserina che ha lo stesso aspetto della tesserina magnetica che il cliente era già abituato a usare, con la sua foto. Una volta smaterializzata la tessera, visto che i mezzi di pagamento sono nativamente integrati nella SIM, basta un semplice clic e l'abbonamento al mese successivo è riacquistato, semplicemente da casa o dovunque esso sia in mobilità. La tessera può essere richiesta online per i clienti di Milano senza passare per l'ATM Point. I clienti di Torino invece dovranno recarsi solo la prima volta presso l'ATM Point per fare la fotografia. Nel caso dei clienti di Milano addirittura la foto può essere, come si dice in gergo, uploadata via internet, quindi il cliente fa un selfie, mettiamola così, e scarica il selfie sulla tesserina che viene generata via internet. Tutto in mobilità. è tutto paperless, quasi tutto paperless, tranne a Torino, ma insomma a Milano avete sentito. Questo è un esempio di quello che si può fare, di quello che succederà nei prossimi anni grazie o a causa degli smartphone, dipende dai vostri punti di vista. Gianfranco Giardini è il direttore del magazine digitale di Day.it. Abbiamo scelto di parlare del futuro della TV questa sera perché... perché ci sono un po' di notizie che abbiamo seguito negli ultimissimi giorni e poi si avvicina anche una stagione in cui magari qualcuno acquista un televisore, perché il prossimo anno, secondo la legge italiana, le TV dovrebbero, i TV dovrebbero cambiare. Allora Gianfranco, diciamo subito che cosa, perché parliamo di questo anche in relazione ad una norma di legge su cui poi diremo qualche cosa in più. Sì, se ne sta parlando molto in questi giorni, anche perché la scadenza dell'anno nuovo, il 2015, si avvicina. Se ne sta parlando in qualche caso anche un po' a sproposito, magari in maniera non completamente informata. C'è molta preoccupazione anche tra i rivenditori perché non sanno bene come si devono comportare. L'obbligo di legge prevederebbe, a partire dall'anno nuovo, che i rivenditori smettessero di trattare i TV non equipaggiati con sintonizzatore DVB-T2, quindi il nuovo standard di digitale terrestre, che diventa quindi obbligatorio su tutti i TV in vendita. Questo è stato diciamo un'esposizione di legge molto criticata dagli addetti ai lavori sin dall'inizio, perché sembrava, e sembra tuttora, una indicazione, anche se in teoria a favore del futuro, per favorire un passaggio graduale verso il DVB-T2, ma un po' già vecchia prima di iniziare, perché l'obbligo del DVB-T2 e basta è assolutamente poco significativo, anche perché si era capito un po' sin da subito che il DVB-T2 sarebbe stato collegato a anche delle nuove codifiche, e quindi non soltanto il supporto trasmissivo, mi sia concesso di dire, semplificando un po', ma anche quello che ci viaggia sopra questo supporto, quindi la codifica che viaggia sopra. Dire DVB-T2 senza dire dell'altro, che nel nostro caso si chiama HEVC, purtroppo sono tante sigle molto complicate, significa poco. Quindi esistono dei TV che sono stati pensati segnatamente per il mercato inglese, che hanno il tuner DVB-T2 ma non hanno il codec HEVC. Se in Italia ci sarà DVB-T2, mai, sarà sicuramente HEVC. Di conseguenza prendere un TV di quel tipo potrebbe essere assolutamente inutile, cioè si è compatibili col futuro sulla carta, ma nella pratica ovviamente non si sarà, e quindi i negozianti anche si chiedono: ma è vero, dobbiamo proprio rispettare questo vincolo? Io, diciamo, da un certo punto di vista, ai negozianti dico, sono affari dei negozianti, se io sono il consumatore cosa faccio? Mi devo preoccupare di questo DVB-T2, DVB-T? Ma allora, in senso stretto, al momento no, perché il DVB-T2 non è prossimo a essere esercitato in Italia, comunque con trasmissioni regolari su tutto il territorio nazionale, e sicuramente non sarà fatto con le codifiche attuali. Quindi spesso potrebbe darsi che indirizzarsi verso un TV di DVB-T2 oggi significa andare verso un TV che non sarà compatibile, e quindi io direi anche no, cioè in questo momento non c'è nessuna differenza. Dopodiché ci si può interrogare, fare delle scommesse. Esistono già dei TV di DVB-T2 con HEVC a bordo, quindi che dovrebbero essere aperti a questo futuro. Ci si può interrogare se e quando questo DVB-T2 arriverà e se diventerà una realtà. Sì. Basta ricordare un piccolo dettaglio: se oggi dovessimo passare al DVB-T2 si tratterebbe di rottamare per certi versi tutti i ricevitori DVB-T che già esistono e tutti i tuner integrati nei TV digitali terrestri che abbiamo comprato fino ad oggi. Sarebbe quello che tecnicamente viene chiamato uno switch off, quindi spegnere quel tipo di trasmissioni, oppure il cosiddetto simulcast, mantenere le trasmissioni di DVB-T e ripetere gli stessi canali anche in DVB-T2, ma non ci sono le risorse trasmissive. Poi è una confusione incredibile. Sì, sì. Saluto Alberto Sigismondi, che è consigliere delegato di TV. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Diciamo subito, TV è una piattaforma sia sul digitale terrestre che sul satellite, giusto? Sì, in realtà poi siamo davvero presenti in modo significativo sul satellite con la piattaforma TVSat. Che cosa si vede su questa piattaforma? Poi diciamo anche come si fa ad averla. Ok, si vedono 70 canali, che sono i canali del digitale terrestre più una serie di altri canali, soprattutto internazionali. Approfitto di questa occasione per fare un pochino di pubblicità, nel senso che proprio oggi è il 14 novembre, è stato comunicato e ha iniziato a essere all'interno dell'LCN, dell'EPG di TVSat, Arte, il canale Arte in HD, quindi un canale di grande qualità, un canale europeo, e siamo molto contenti e orgogliosi di questo. Allora, questa è una piattaforma su cui ci sono anche molti canali in HD, poi parleremo dell'alta definizione e arriveremo anche al 4K. Quanti sono i canali in HD su TVSat? 6, non moltissimi, però pian piano. Compresa Arte? Anche, sì, i broadcaster italiani stanno cominciando ad avere un atteggiamento un po' più laico rispetto alle piattaforme. Il satellite è un po' considerata una piattaforma molto adatta come gap filler, come riempitivo delle zone che non sono coperte dal digitale terrestre, ed è stata questa la missione che TVSat ha espletato. È chiaro che siamo in una fase dove tutta una serie di servizi probabilmente non troveranno spazio sul digitale terrestre. Il satellite diventa la piattaforma ideale per avere, come peraltro ci insegna la piattaforma a pagamento, Che si chiama Sky. Ma lui non lo può dire forse. No, perché poi non è un vero concorrente, perché voi siete gratuiti. Assolutamente, giusto? Sì. Cosa devo fare per avere Devi TVSat? Andare in un negozio e acquistare un decoder TVSat con tessera, attivare la tessera e goderti forever il tuo decoder e soprattutto i contenuti che puoi vedere in ottima qualità, con un EPG che funziona. EPG è la guida dei programmi, sì, che vedo l'Electronic sulla Program Guide, sì, che sì, funziona molto bene. E i decoder HD per di più hanno connettività a tutti i servizi interattivi free e a pagamento che sono attualmente disponibili, o buona parte di essi. Quindi sostanzialmente devo avere una parabola sì, e dopodiché stessa parabola di Sky, diciamo, stesso satellite. Sì, stesso satellite, Hotbird a 13 gradi e Eutelsat. Quindi una parabola satellitare e poi il costo del decoder, dopodiché è tutto gratuito. Adesso sì, abbiamo una breve pausa e riprendiamo tra un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Ringrazio Anita Panizza che ci aiuta in redazione, Carmelo Lauricella si occupa della parte tecnica. Stiamo parlando della TV, del futuro, futuro prossimo, imminente e futuro magari di qualche anno. Fra qualche anno con Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it, e Alberto Sigismondi che è consigliere delegato di TV e soprattutto, come ci ha detto, di TVSat. Allora Gianfranco, possiamo dire quasi tranquillamente che il DVB-T2 sulle frequenze terrestri, visto che non c'è spazio, non si farà mai. Mi prendo io la responsabilità di dire questo. Comunque si farà pochissimo, non ci sarà quasi nessun televisore che riceverà questo, insomma. Diciamo, l'unico scenario ragionevole a mio avviso è, visto che ancora le trasmissioni in HD sono molto poche sul digitale terrestre, che si scelga di tenere tutto l'HD su dei multiplex DVB-T2, ammettiamo, e gli standard definition continuare per sempre a trasmettere in DVB-T per continuità con gli apparecchi che si sono venduti in questi anni. Sì, troppa confusione. Difficile, sì, sì. Anche perché poi Rai 1 andrebbe trasmessa in entrambi i modi e così via, tutto, cioè complesso. Sbagliamo molto se diciamo che non ci sarà qua Sigismondi. Ma allora, è una materia estremamente complessa, complicata. Molto complicata. Probabilmente servirebbe un ragionamento complessivo di sistema come quello che è stato fatto all'inizio degli anni 2000 con il famoso libro bianco su come arrivare alla televisione digitale allora, riproponendo il tema della qualità, riproponendo la necessità di un piano organizzato che guardi e traguardi forse 10 anni per poter garantire ai broadcaster, ma soprattutto agli utenti, quella qualità che è necessaria, anche perché è un po' la coda che muove il cane, nel senso che la tecnologia sta andando avanti. È stata, nel bene o nel male, promulgata una legge che impone ai ricevitori di essere in DVB-T2. Ci sono all'orizzonte altri eventi che probabilmente influiranno sulla quantità di spettro che il digitale terrestre potrà realmente impiegare. Quindi, se non creiamo una razionalizzazione e una pianificazione di questa migrazione, che poi alla fine richiede un altro passaggio tecnologico come quello che è stato fatto in passato alla fine degli anni tra il 2007 e il 2012, tra una tecnologia e un'altra, in questo caso tra DVB-T e DVB-T2, se non facciamo questo tipo di ragionamento, questa confusione potrebbe davvero essere... Esatto. E poi io penso che il mondo della TV, che è sempre stato uno strumento molto facile come la radio, stia diventando effettivamente complicatissimo. E questo è un male per tutto il sistema. Possiamo dire, Sigismondi, che oggi, se uno vuole qualità, forse l'unico modo per fornirla ai consumatori, parlo di alta definizione, visto che sul digitale terrestre di fatto di alta definizione non c'è quasi nulla, ma è molto poco, l'unico modo per fornirla è il satellite? Ma io credo che l'alta definizione sia ancora alla portata, è alla portata del digitale terrestre. Forse il 4K non sicuramente con un orizzonte temporale di 5-8 anni, ma servirà appunto una migrazione totale al T2, perché comunque questa migrazione comporta anche un simulcast, cioè la necessità di trasmettere sia in T che in T2, sì, che vuol dire quindi ancora meno spettro. L'alta definizione, non in quantità straordinaria, ma almeno per le reti principali, ci può stare sul DVB-T2. Probabilmente non una varietà che riguardi tutti i canali e quindi una vera migrazione all'HD, questo no. Per questo serve il satellite. Gianfranco. Il problema è che siamo nell'ambito, adesso qui parlo non più di televisione ma di televisori, entrati ormai nell'era di televisori che hanno 4 volte la risoluzione del Full HD, cioè i TV 4K o Ultra HD. L'anno prossimo tutti i TV sopra un certo polliciaggio saranno 4K e ancora il nostro mondo televisivo, ahimè, terrestre, si sta interrogando sull'ipotesi di avere qualche canale in più in HD e quindi di 4K non se ne parla neanche. Noi, mi metto sulla sponda dei consumatori, degli spettatori, vorremmo avere qualità maggiore, anche quando parliamo di canali in HD, e poi bisogna guardarci dentro questo segnale HD, quanto è compresso, quanti quadrettoni poi vediamo, no? E un segnale può essere anche formattato originariamente in Full HD, poi arrivare interlacciato, arrivare molto compresso e quindi sembrare qualche cosa che assomiglia molto anche a una standard definition. Quindi non ci si può neanche riempire la bocca col termine HD o Full HD, bisogna poi guardarci dentro. Quello che io vedo dentro nella TV digitale terrestre oggi, da utente, magari è voluto tutto quello che si vuole, ma non mi soddisfa. Vieppiù perché i TV stanno diventando sempre più grandi, quindi ormai 55 pollici è un taglio normalissimo per un salotto e incomincio a sentire persone normalissime, non particolarmente appassionate, che parlano di 65 pollici, qualcuno sta andando verso 70, 77, quindi parliamo di schermi giganteschi rispetto ai 32 pollici che erano lo standard per la standard definition, che erano il TV classico in standard definition erano 32 pollici, stiamo parlando di TV che sono grandi 4, 5, 8 volte tanto. Non possiamo dargli il medesimo segnale, ci vuole un segnale adeguato. Io non credo, non vedo, per quello che ho visto in questi anni, uno sviluppo di questo tipo sul digitale terrestre. Sì, questo è un serio problema, perché effettivamente stiamo vendendo prodotti che sostanzialmente sono inutili rispetto alle diffusioni e dei contenuti di oggi. Ricordiamo anche, così giusto per essere chiari, ma tanto a 2024 l'abbiamo detto più volte, che ad oggi un TV 4K è pressoché inutile. Quindi io... una scommessa sul futuro. Sì, però... e proprio di questo stiamo parlando stasera, soltanto che per scommettere bisogna anche avere fiducia nel futuro. Ci vorrebbe che qualcuno ce la dia. Sì, e pianificasse un po' di cose. Sigismondi, a proposito di TV del futuro, possiamo pensare che la TV del futuro sarà tutta online? Caspita, TV qui SAT dovrà diventare boccia anche di vetro. Allora, Net. non in tempi, come dire, molto prossimi, nel senso che ci sono tutta una serie di tematiche che riguardano la penetrazione della fibra, la diffusione, la capacità quindi di portare banda in modo davvero sostanziale nelle case e averne una diffusione universale, cosa che è difficile immaginare prima di 10-15 anni. Credo che la soluzione ideale sia un sistema misto dove per certi tipi di contenuti il digitale terrestre, che ha questa caratteristica di universalità, continuerà a fare la sua parte. Altri tipi forse di contenuti a qualità e quindi a necessità di banda più elevata sul satellite, e poi mano a mano la fibra si diffonderà anch'essa come vettore, soprattutto per tutto ciò che riguarda contenuti on demand, contenuti con visione non lineare, e poi probabilmente da un certo punto in avanti anche per lo streaming vero e proprio, quindi per poter vedere le reti che adesso vediamo in broadcast. Però c'è anche un tema di efficienza delle reti. Il broadcast rimane per adesso e per un futuro appunto prossimo il sistema ancora più funzionale ed efficace per raggiungere ampie fette di popolazione a costi bassi. In questo senso poi il satellite è imbattibile. Il satellite costa circa un decimo, la banda sul satellite costa circa un decimo della banda sul terrestre. Perché è così poco diffuso? Il satellite? Beh, però ridendo e scherzando, in Italia ci sono tra gli 8 e i 9 milioni di parabole, quindi diciamo quindi che... è diffuso? Sì, magari non se ne parla tanto, però su TVSat sta per raggiungere nelle prossime settimane 2 milioni e 300 mila box attivati. La piattaforma a pagamento innominabile che si chiama Sky fantastico, ha 4 milioni e 700 mila famiglie abbonate, quindi più il Sat Free, che è in discesa, che però è comunque ancora una presenza importante, vedi che raggiungiamo una cifra che è pari a un terzo degli household italiani. È ipotizzabile che arrivi in Italia, a proposito di qualità richiesta dai consumatori, vista la disponibilità di televisori HD, è ipotizzabile che arrivi una piattaforma concorrente che punti solo sull'HD? Perché so anche in Germania, ne abbiamo parlato anche un anno fa mi pare, in Germania è arrivata una piattaforma concorrente che fa sostanzialmente HD. Parli di HD Plus? Sì. Ok. Se in Italia potrebbe arrivare una piattaforma di questo tipo? Sì, forse. Potrebbe. Non lo so. Anche qui boccia di cristallo. Chissà se lo sa e non può dirlo. Vabbè, cioè, questo no. Dobbiamo guardarlo negli occhi. Esatto. In radio gli ascoltatori non possono saperlo, sì, ma sì. Noi forse qualcosa leggiamo, qualcosa no. Bene, adesso abbiamo una breve pausa, riprendiamo tra poco. 2024. L'ultima parte di 2024, ho letto tra le notizie di questa settimana, tra le ultime notizie, che DirecTV lancerà un canale in 4K. Tra poco dovrebbe arrivare anche in Italia Netflix, che ha più volte annunciato, anche in via sperimentale, una sorta di test in 4K. Ci sono effettivamente alcuni test, ad esempio il prossimo concerto dei Linkin Park alla O2 Arena di Berlino di mercoledì prossimo verrà trasmesso in diretta in formato 4K grazie ad una collaborazione tra SES, che noi in Italia conosciamo più come Astra, e Samsung. È un test, è un esperimento, ci saranno 3 consumatori che riescono a riceverlo, perché non ci sono poi così tanti TV 4K. Però volevo chiedervi, per quale motivo oggi ancora non c'è alta definizione, quindi ci sono pochissimi programmi in alta definizione e molti vogliono parlare di 4K quando poi anche i contenuti in 4K sono rarissimi, non esiste nemmeno un supporto fisico come il Blu-ray in 4K, Sigismondi. Ma allora, perché c'è questa ci gara? Vedo, ci vedo la volontà di fare marketing, di distinguersi come promulgatori, propugnatori e portatori del futuro. Diciamo una cosa però, se adesso ci sono effettivamente 4 consumatori, la curva di prezzo dei pannelli 4K è in discesa davvero forte, quindi noi vedremo già sul mercato americano l'anno prossimo e probabilmente nel giro di 12 mesi, in 12-16 mesi, 18 mesi in quello italiano, televisori 4K a 690 dollari negli Stati Uniti, 600 euro, 500 euro in Italia. Quindi diventerà una, fammi passare il termine, una commodity il 4K. A quel punto ci sarà la massa critica. Gli operatori che vogliono distinguersi per la qualità, DirecTV lo fa su satellite negli Stati Uniti, Netflix è il servizio OTT sicuramente più importante in questo momento al mondo, vogliono avere questo fiore all'occhiello, che inizialmente è più un trucco di marketing, ma nel giro di un paio d'anni potrebbe avere una massa di utenti attrezzati alla ricezione abbastanza importante. Gianfranco, c'è comunque il rischio che il 4K faccia un po' la fine del 3D. Tutti i televisori sono 3D, ma non, tanto non lo usa nessuno, il 4K sarà diffusissimo. Sì, sarà diffuso come si usa in Italia, a sua insaputa, cioè a insaputa dell'acquirente che sì, comprerà sì, le TV top di gamma, medio di gamma, e saranno 4K, come ha detto giustamente Alberto. Nel giro di un anno da oggi i TV 4K costeranno come i Full HD 6-7 mesi fa. Completamente inutili. Beh, no, completamente inutili. Quasi. Per vedere le fotografie sono splendidi. Sì, però. Ecco, per esempio, no? Ecco, volendo trovare delle cose buone, perché si vedono le foto a 8 megapixel contro i 2 dei TV o anche dei monitor per PC ai quali si vedono oggi. Quindi un fotoamatore, invece di proiettare le diapositive come faceva una volta, prende un bel TV 4K bello grande, non spende neanche tanto e si vede le sue foto a una risoluzione alla quale non può vederle neanche su PC. Quindi è già una cosa bella da quel punto di vista. Io sono un po' scettico sul discorso che faceva Alberto del parco installato che poi spingerà, perché poi quando diventerà commodity veramente finirà anche l'hype di comunicazione attorno a questo Ultra HD. Si parlerà d'altro, si parlerà di OLED, si parlerà di altre tecnologie. E se io dovessi vedere oggi, il parco installato di Full HD è praticamente totale o quasi, quantomeno sul primo TV di casa sicuramente sì, ma non vedo questa fila dei broadcaster trasmettere in HD. Quindi nel parco installato ha dimostrato di non essere, a mio avviso, uno stimolo sufficiente per cambiare un processo produttivo che è comunque costoso. Il principale notiziario italiano, che è il TG1, è diventato in 16 noni e prodotto in HD da qualche mese, e stiamo parlando del 2014, quindi quando oramai la TV HD Sky trasmetteva 40, 50, 60 canali, non so più quanti, ho perso il conto ormai da anni in HD. Quindi è andare a intervenire su dei processi radicati, vecchi, che è molto difficile. Forse, di qualcuno dice, forse, cioè qui fare il salto totale del Full HD e passare al 4K, non lo so, può essere. Però onestamente credo che anche i problemi di risorse trasmissive che abbiamo in Italia così concentrate sul digitale terrestre spingerà forse qualcuno adesso ad adottare il Full HD. Il 4K rischia, suo malgrado, perché l'innovazione tecnologica c'è, di diventare in Italia un qualcosa di molto più sterile di quanto magari possa essere negli Stati Uniti. La tecnologia non è più locale, non abbiamo più produttori italiani di TV che fanno i TV per il mercato italiano, i TV vengono fatti per il mercato internazionale, quindi sono 4K a prescindere che noi si usi questa tecnologia o che noi non la si usi, e quindi è così. Purtroppo tocca dire, volendo essere molto onesti, che la funzione di upscaling dei contenuti, magari standard definition, in 4K, cioè guardare un canale standard definition con un TV 4K, non porta un miglioramento qualitativo significativo, soprattutto ai rapporti distanza di visione, dimensione schermo, che vengono normalmente utilizzati in Italia. Sì. Sigismondi, tornando un po' indietro dal 4K, quindi alla definizione, alta definizione, al 2K, possiamo aspettarci qualche cosa di nuovo nei prossimi mesi almeno sul digitale terrestre o sul satellite? Ma sarebbe molto bello, francamente, che si facesse chiarezza sulla normativa. Si parla da mesi della possibilità di un decreto che possa aggiungere all'obbligatorietà del T2 anche l'obbligatorietà del codec HEVC e CVC, che, come dire, almeno doterebbe i televisori da un certo punto in avanti di questa tecnologia che consente una compressione maggiore. Perché il discorso, perché si dovrebbe passare dal T al T2? Perché utilizzi meno banda per trasmettere lo stesso canale. E perché hai bisogno di questo codec più efficiente ancora per utilizzare meno banda e trasmettere con la stessa qualità? Quindi, se vogliamo parlare di servizi che abbiano qualità, abbiamo parlato di HD, abbiamo parlato di 4K, è necessario che l'utilizzo della banda sia ridotto al minimo possibile grazie a questa compressione digitale. E quindi già questo, secondo me, se accadesse, sarebbe un aiuto al mercato per fare chiarezza, sarebbe un aiuto anche per i broadcaster per poter pianificare e per introdurre questo concetto che ho citato prima della necessità di arrivare a un progetto nazionale di sistema che garantisca una roadmap chiara per tutti, per l'industria, per i consumatori che dovranno affrontare il ricambio tecnologico, per i broadcaster che dovranno investire in contenuti e banda per poter garantire maggior qualità ai propri utenti, ovviamente il tutto contornato e condito con dei modelli di business che permettano questa migrazione al di là della bellezza delle sigle. Sì, il rischio è che, poi vedremo se il governo sarà in grado di fare questa pianificazione, il sottosegretario Giacomelli, che si occupa di questi temi, ha detto che per la radio ci si impegna a farlo, poi non so se assieme alla radio si farà anche per la TV. Il rischio è che non si faccia nulla o quasi nulla, non si riesca a chiarire quello che e come deve andare in etere, e internet gradualmente si apre la strada. Gianfranco, un minuto. Sì, qualcosa deve essere fatto velocemente, perché se il decreto in qualche modo rimanda e corregge l'obbligo di legge che partirebbe dal 1 gennaio 2015, deve essere fatto nel prossimo mese e mezzo, e quindi deve essere fatto molto velocemente. Quindi, al di là dei piani nazionali, probabilmente un qualche provvedimento su a questo tema è necessario più presto possibile, anche perché ci mettiamo nei panni dei rivenditori, che hanno è in capo a loro l'obbligo di avere i prodotti di VBT2 dal 1 gennaio, e devono sapere anche come fare le scorte, come fare gli ordini, se farle. In questo momento non c'è chiarezza, è passato più di un anno e mezzo dalla promulgazione di questa legge, si aspetta ancora questa chiarezza. Credo che ormai i tempi debbano essere maturi. Bene, comunque Sigismondi non ci ha detto se arriva qualche cosa in HD tra poco. Non si sa. Meteorite, sì, in HD. Bene, grazie a Alberto Sigismondi, che è consigliere delegato di TV, che vale a dire amministratore delegato, però si chiama consigliere delegato in questo caso, Gianfranco Giardina, che guida il magazine digitale di day.it. Grazie Gianfranco. Grazie a tutti. E grazie ad Alberto Sigismondi. Grazie a voi. E così concludiamo questa puntata di 2024. Grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato questa versione podcast o averla ascoltata in streaming, poco cambia. Questa settimana abbiamo fatto aspettare un poco di più per avere a disposizione lo streaming, perché ci siamo appunto collegati con l'Agenzia Spaziale Europea per gli ultimi aggiornamenti. Poi ad un certo punto abbiamo dovuto pubblicare il podcast, tutti gli altri aggiornamenti su internet. Il nostro indirizzo di posta elettronica 2024 è radio24.it. Il nostro programma va in onda il venerdì tra le 22 e le 23, la domenica alle 13 fino alle 13.30 in versione più breve. E poi tutto trovate in podcast. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ad Anita Panizza che ci aiuta in redazione. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024.